sua abitudine, cercava di catalogare il cielo. Quello che intravedeva gli richiamava alla memoria certi dipinti di Cézanne, quelli con i pini in primo piano e le pennellate di un giudestrino ora tenue, ora acceso, che si aprono stentatamente la strada tra i mille aghi e i rami. Aveva già potuto ammirare i cieli alla Margherita, quei cieli tanto spaesanti da dare un capogiro, tante piccole nuvolette tutte uguali, schiere di soldatini burrosi disposti per l'attacco. I cieli di Renoir, morbide epifanie di corpi femminili, sensuali, carnosi, cedevoli. Cieli roteanti come galassie impazzite, corrosi da un sole malato che come un cancro li divorava. Erano i cieli di Van Gogh, vittime, come lui, di un male incomprensibile. Ho cominciato a frequentare Pier Giorgio Welby da bambino. La sua stanza era un luogo altro rispetto al resto del mondo, piena di colori, di tele, di foto e di libri soprattutto, quelli riposti negli scaffali e quelli che quando entravo trovavo aperti sul tavolino della carrozzella. Muoveva le mani in modo strano, mi sembrava altissimo, perfino da seduto. Non ci crederete, ma sentivo già il privilegio di conoscerlo. Altro che libri. Spesso i libri sono più chiusi delle stanze. Parlano del bene, fanno cultura, vorrebbero insegnarla, ma sono morti come chi li ha scritti. Lui era in tutto e per tutto un'altra cosa, perché non c'è niente da fare. I maestri si riconoscono soltanto all'aperto, lontano dalle scuole. Sopra di lui non c'era più il cielo, ma solo il bianco del soffitto. Aveva desiderato con tutte le sue forze che quel bianco anonimo, freddo, allucinante, si cambiasse in un colore qualsiasi, anche il nero. Ma il bianco era sempre lì, trapassava le palpebre chiuse, penetrava nel cervello, si impossessava del suo corpo e lo raggirava, invadendo ogni cellula, ogni pensiero. Anche i ricordi perdevano i loro colori e si trasformavano in un tragico film in bianco e nero. Quella puttana dell'ostetrica ha fatto male il suo lavoro. Quando sono nato, non si è accorta che accanto al solito cordone ombelicale ne avevo un altro, meno visibile, ma più resistente. Lei ha tagliato il più appariscente, senza curarsi di controllare bene. E così sono cresciuto con questa appendice elastica che mi ha tenuto sempre unito a mia madre. Come tutti gli elastici, consente una certa libertà. All'inizio si lascia tendere con facilità, ma più la distanza aumenta, più la tensione si fa forte, fino a quando, con uno strappo feroce, non mi riporta fra le braccia di mamma. Stronzo defottuto, che cosa aspetti? Taglialo te! Che non ci ho pensato. Ai giardinetti provavo a correre via insieme agli altri bambini, ma quando arrivavo a una certa distanza venivo inesorabilmente risucchiato indietro fra le sue mammelle gigantesche che mi avvolgevano con il loro odore asfissiante di borotalco e sudore. E accettavo la mano fra i capelli, il bacio umido di Rossetto, come fosse una maledizione divina, un maleficio al quale non potevo sottrarmi. Adesso è il viaggio rassegnato, l'assenza che non riesce a farsi adulta, il ritorno avvilito, la rabbia dell'orgoglio sconfitto, il perverso piacere della dipendenza. gli occhi bolliti dal sole di questa mattina di merda, uguale a tante altre che mi vedono arrotolato su me stesso come una vipera prima di mordere, non si vogliono aprire. Oh, il terrore di ritrovarmi davanti all'incubo di Roberto, con il corpo squassato da scosse epilettiche che lo fanno sobbalzare come una marionetta, mentre dalla lingua incastrata fra i denti uno scorrere continuo di sangue bava gli colora la t-shirt di rosa confetto, sputava coi muscoli duri di sughero le esplosioni blu di fiammelle. Niente spezzava il delirio elettrico del cortocircuito cerebrale. L'abbiamo lasciato davanti all'ingresso del San Camillo, scaricato, abbandonato sul selciato nero, bagnato dalla notte. Qualche cosa, suoni scagliosi in cerca di inutili appigli. Io non ho capito, o non ho voluto capire, mentre rincorrevamo il buio confuso dei muri sfuggenti. Ho lasciato a mezz'aria un ultimo sguardo di vergogna. L'ho visto, si è alzato da terra, ha fatto due passi ed è caduto. Plink, plink, plink, gocce di trapano aguzze dal rubinetto della cucina. Plink, plink, plink, trafiggono il freddo del silenzio. Plink, plink, plink. Ma che cazzo potevamo fare? Chiamare un dottore? Bella stronzata. Scusi, guardi, c'è un nostro amico che si è fatto e adesso schizza e sbava come un invasato. Potrebbe venire a darmi un'occhiata. Ma vaffanculo, non voglio uscire da questo guscio che mi distrugge e protegge. Non voglio vedere, non voglio sapere, non voglio correre dietro al rimorso, non voglio aspettarlo come una bestia al macello. E si è morto. Sti cazzi! Cammini! Guardi il sole, tocchi il culo alle donne della metropolitana, ti fai la barba pensando al diploma, alla laurea, al posto in banca, ti immagini come sarai fra 20 anni e intanto una pensa si gonfia e pulsa nella melassa appiccicosa che ti riempie la testa. Tu pensi, lei scoppia come un ombrico merdoso schiacciato da un tallone. È un'emorragia, fa piazza pulita di tutti i tuoi pensieri. Se ti va bene, 4 fiori e un funerale, ma se non c'è culo, rimani su una carrozzella a cagarti addosso per il resto della vita. Ma se è morto è morto, che cazzo c'entro io? Chissà, forse gli è andata pure bene. Gli anni 60, Losing the Sky with Diamonds, Ferlinghetti. Mi piaceva fare l'uomo del quartiere da un muretto all'altro fino alle 5 del mattino. Quante utopie fraintese in quei capelli lunghi e in quelle barbe. Fu così che decideste di partire. Tu, Martinelli e Cicalone, giusto? Un pieno di benzina, qualche soldo in tasca, 2 armoniche alla Dylan e via sulla strada. A portarvi in giro per l'Europa la giardinetta verde costata una sciocchezza e riverniciata con tanti fiori colorati. E una sola scritta sullo sportello. Giorgio si droga con il caffè. Poi, a un certo punto, neppure quello ti bastò. Il blu dentro agli occhi. Te lo ricordi perfino adesso, ne sono sicuro. Quel giorno che ti sei fatto accompagnare da un amico in macchina fino a Ninfa col fucile di tuo padre e il pretesto di sparare alle allodole. Volevi morire con il blu dentro agli occhi. E invece, finito l'effetto della roba, ammazza che buona, torniamo da Sergio e prendiamone dell'altra. E la sera, a casa di Enrico, l'unico a non essersi fatto era Ninni, che controllava, preoccupato per te. E giorni prima gli avevi detto che mi frega se muoio. Se fossi stato accontentato, la tua morte sarebbe stata una morte come tante ce ne sono state in quel periodo, anonima, priva di senso. Overdose non è l'eutanasia. L'eutanasia sì che riesce ad aprire i TG, a scandalizzare, a scuotere le coscienze di un paese, a vietare i funerali. Caro presidente, scrivo a lei e attraverso lei mi rivolgo anche a quei cittadini che avranno la possibilità di ascoltare queste mie parole, questo mio grido, che non è di disperazione, ma carico di speranza umana e civile per questo nostro paese. Io amo la vita. Presidente, vita è la donna che ti ama, il vento tra i capelli, il sole sul viso, la passeggiata notturna con un amico. Vita è anche la donna che ti lascia, una giornata di pioggia, l'amico che ti delude. Io non sono né un malinconico, né un maniaco depresso. Morire mi fa orrore. Purtroppo, ciò che mi è rimasto non è più vita. È solo un testardo e insensato accanimento nel mantenere attive delle funzioni biologiche. Sua Santità, Benedetto XVI, ha detto che di fronte alla pretesa, che spesso affiora, di eliminare la sofferenza, ricorrendo perfino all'eutanasia, occorre ribadire la dignità inviolabile della vita umana, dal concepimento al suo termine naturale. Ma che cosa c'è di naturale in una sala di rianimazione? Che cosa c'è di naturale in un buco nella pancia e in una pompa che la riempie di grassi e proteine? Che cosa c'è di naturale in uno squarcio nella trachea e in una pompa che soffia l'aria nei polmoni? Che cosa c'è di naturale in un corpo tenuto biologicamente in funzione con l'ausilio di respiratori artificiali, alimentazione artificiale, idratazione artificiale, svuotamento intestinale artificiale, morte artificialmente rimandata? Il mio sogno, anche come co-presidente dell'associazione che porta il nome di Luca, la mia volontà, la mia richiesta, che voglio porre in ogni sede, a partire da quelle politiche e giudiziarie, è oggi nella mia mente più chiaro e preciso che mai poter ottenere l'eutanasia. Mi ricordo ancora l'effetto che mi fece vedere in televisione il messaggio di Pier Giorgio e la sua lettera al capo dello Stato. Il battito del cuore mi si gonfiò negli occhi, perché la sua stanza improvvisamente diventò davvero quello che avevo sospettato. Un luogo senza precedenti e destinato a lasciare un segno. Cercando di trattenere tutto quello che mi era scattato dentro, gli scrissi una mail. La tua ultima battaglia. Mi rispose semplicemente: ti ringrazio. E così continuò a fare nei giorni successivi, tutte le volte che gli scrivevo sull'onda di quel tragico entusiasmo. È durata quel che è durata. Non mi aspettavo certo di invecchiare insieme a lei, mano nella mano, davanti al televisore, a litigarci il telecomando. È durata quel che è durata. Eh sì, anche dopo quella sera con la birra e la pizza agli angoli della bocca, con le lingue dure a scavarci le gole, coi capezzoli ribelli schiacciati dai pollici, con le mani esploratrici avventurose di insondabili buchi neri esplosi in quella camera tappezzata di stampe al vetriolo e mobili di cartapesta, mutandine bianche, rigonfie di fica, collegiale in gemma dei mille, non so, del cento lo vorrei, crisantemi e papaveri intorno ai tuoi, mi vergogno, ai tuoi così no, abbracciati ai rumori del risveglio, scivolati sulle insolenti discese della notte, il cuscino ai tuoi grandi occhi sgommati di ombretto verde e il lenzuolo un'aureola di sperma. È durato quel che è durata. Ma era un giorno banale, banale l'appuntamento a Largo Argentina, banale il tailleur blu, banali gli attu senza serbatoio, banale il rumore del traffico e... Lascio il lavoro, mi sposo. A che cosa pensano i piccioni? Mi sposo, sai? Adesso che papà è venuto a mancare, ho un dente scheggiato, dovrei andare dal dentista. Me lo ha chiesto all'improvviso, ho detto sì, siamo fidanzati da tanti anni. Lui è di Salerno. L'amantide divora il maschio durante l'accoppiamento. Comincia dalla testa e lui continua a scopare, a scopare, a scopare, a scopare. Non te ne avevo mai parlato prima perché, beh, mi sembrava una cosa tanto lontana. Un'abitudine. Anche volendo è una situazione dalla quale non potrei più tirarmi indietro. Andiamo a vivere con mia madre. A Pontedera. I miei libri, la mia stanza, il mio orsetto avvelenato. Adesso conterò fino a tre e questo incubo finirà. Uno, due, tre. Spero che tu possa trovare una brava ragazza, puoi dare tanto a una donna. Non odiarmi, cerca di capire. Ti ho voluto bene. Sei gentile, comprensivo, dolcissimo. È stato bello. Ma devi capirmi. Io capisco. Certo che capisco. Lo sanno tutti. E gli handicappati fisici sono intelligenti. Oh, poveraccio, hai visto come è ridotto? Oh, sì, però è tanto intelligente. Io voglio essere un handicappato stronzo. Non voglio più essere comprensivo, voglio essere stronzo. Rivendico il diritto alla mia parte di imbecillità, alla mia quota di acida indifferenza. Voglio ingannare, mentire, calpestare i sentimenti, fregarmene delle disperazioni altrui. Voglio una sana ipocrisia che mi circondi di tranquillità. Mi ha sfiorato la guancia con un bacio. E via. Un semaforo verde. E la Quintana riparte. Come riuscirò a nascondere questa lenta dissoluzione che mi sale intorno? Questa esclusione razzista che mi inchioda ogni giorno a un letto di contenzione sempre più piccolo, sempre diverso. Mi risveglio incuriosito dal suono della giostra che ti offre un unico giro ed è già la vita vera! Un attimo di pazienza! Cazzo, è mica facile strapparsi un occhio. Ecco, infilo l'indice a modo uncino ed è fatta! Una gelatina appiccicosa che cola dappertutto. Mi fisso dalla pupilla incredula mentre pietosamente lecco la sclera umida di pianto. La mia lingua sul mio occhio, sensazione unica di indimenticabili piaceri fetali. Il mio occhio, la mia anima, la mia mamma, la mia ansia, la mia nascita, la mia morte, la mia resurrezione. Prendete, questo è il mio occhio. Lo mangio devotamente, mistico frammento sottratto ai dolori del mondo. Vedo i denti, l'ugola, l'ultimo sguardo prima del morso deciso. Mi inguio. Sono buono, mi piaccio, manca solo un po' di sale. Se il vostro occhio vi offende, strappatelo e datelo a me. Non è male. L'orbita vuota mi dà un aspetto piratesco che non basta. Interessante. Ciao, dove hai perso l'occhio? Che stronzate, un occhio non si perde. Allora vuoi dirmi come hai fatto a diventare orbo? Semplice, l'ho mangiato. Dovrei pensare anche al resto. Labbra, naso, capelli, le orecchie. Dovrei riuscire a essere un altro me stesso. Mostruoso, repellente. Rinchiuso nel bozzolo stanza, aspetto la metamorfosi, il liquefarsi incomprensibile di cellule esasperate. Alzati, è quasi mezzogiorno! In questa casa ci sono delle regole, nessuno ti obbliga a rimanere. Tagliati i capelli e comportati da persona normale. Non vedi come ti guarda la gente? Mi vergogno di essere tua madre. Scivolo nei jeans, porca miseria, mi pizzico il cazzo della lampo. No, le mutande non le metto. Piscio sulla tavoletta del cesso e non tiro lo sciacquone. Guerriglia, azioni di disturbo, piccoli e civili rappresaglie. Basta la vittoria, sempre! Oh, scompagneros! Non fai colazione! Oh, la guappa muchacha, non passa la spelota! Io non volevo nascere. Nessuno me l'ha chiesto. Se quei due stronzi prima di scopare mi avessero domandato: sei contento di nascere in un'onesta famiglia borghese? Gli avrei risposto: sareste contenti che vi nascesse un figlio come Maso e vi sfrangasse il cranio spargendo per tutta la casa quella caccola di cervello che vi ritrovate? 5-1 che la voglia di scopare mi passava. Oh, cimine! Ehi, c'è! Mi fissano con disapprovazione e se ne stanno appiccicati alla parete come due facce della stessa medaglia. Una medaglia che mi ricorda in continuazione la mia inutilità. Ma vaffanculo! Che cazzo ne sapete voi della guerra che combatto ogni giorno? Delle ritirate, delle imboscate, delle umilianti rese incondizionate. Mi hanno fatto prigioniero il giorno stesso che sono nato. Io ancora non lo sapevo, ma i miei cromosomi malati sì che lo sapevano. Brodetto primordiale condito col veleno. Regalo di un dio logico. Un dio teologico. Un dio concettuale. Un dio burlone, un dio buffone, un dio sadico. Il dio degli imbecilli che quando le cose vanno bene lo ringraziano pregando, ma se le cose vanno male se la prendono con l'umanità. Questo dio nazista mi ha incatenato con la distrofia muscolare faccio scapolomerale. La mia innocenza, i miei muscoli strappati dagli artigli del tempo. Prometeo incolpevole, assisto impotente alla rovina che ogni giorno mi avvicina a quella morte sognata e temuta che mi riempie la giornata di infantili balbettia alla UNESCO. Inciampo nei miei stessi piedi e spio il ridicolo gesto che conferma un'altra perdita. Era facile, fare gli eroi nella giungla cambogiana o contro i governativi in Bolivia, dire cazzate piene di saggezza o fumarsi una canna tra una scaramuccia e l'altra. E quello unito no! No, io non finirò mai sulle t-shirt degli ipervitaminizzati cuccioli dell'Occidente o sugli striscioni dei centri sociali o sulla parete di qualche sezione di rifondazione comunista, no! Io finirò in un centro di rianimazione con gli occhi fissi al soffitto bianco e il corpo pieno di tubi. Mi tormenteranno i decubiti e i discorsi delle infermiere che mentre mi tolgono la merda si racconteranno i brividi dell'ultima scopata. Eroi. Eroi di cazzo! Vorrei vederli nel posto questi superuomini coccolati dalla storia. Compare e applausi. Tre giri di campo tra l'entusiasmo satico della folla e poi l'uscita trionfale. Non come quei vitelli morti ammazzati appesi al gancio del loro terrore. Mattatoi e corsie, medici e macellai, puzzo di morte e disinfettante, indifferente catena di smontaggio dei poveri stronzi già dimenticati. Alzati! È quasi mezzogiorno! Raffica di mitra! Se avessi un lavoro, non te ne saresti in giro tutta la notte! Boom! Un mortaio Roy 162 al buio da 81 mm. Le persone per bene la notte stanno a casa. Anche loro prevede il diritto di rappresaglia. La mia non è guerra, la mia è legittima difesa. Per la fretta di uscire non sentirla più rompermi i coglioni, non provo nemmeno a cagare. Guardo in cucina se è rimasto un po' di caffè. Lo bevo così com'è, freddo, amaro, pieno di fonti. Torni per pranzo! Il vaffanculo rimane preso dalla porta che sbatte! Diario di bordo. Domenica 21 luglio 2002. Mare, calma, piatta. Vento assente. Nessuna nuvola all'orizzonte. Temperatura torbida. Il rumore di fondo del mare. Ecco che cazzo sono le donne nella mia vita. E ne stai lì, lungo, disteso sulla sabbia, gli occhi socchiusi, tutto normale, tutto come te lo aspetti. E invece no, improvvisamente, senza un perché, senza un per come, quel rumore da radio mal sintonizzata del quale non ti accorgevi più, diventa il solo rumore che esista. Di notte, di giorno, mentre mangi sul cesso, quando scopi con gli amici, è sempre là, sopra, sotto, dentro di te, intorno a te, negli occhi, nei pensieri, nel cazzo. Una nuova donna, una donna rumore di mare. Eppure l'avevo vista per caso alla Wildm. Questa è la nuova assistente sociale. Oh, sti cazzi, avrei dovuto rispondere. E invece, lo voglio, Cristo, se lo voglio. Solo tu puoi farmi guarire, solo tu puoi farmi sognare la fine di questa tragedia. Tra le tue tette di panna e Nutella, sul tuo culo di pistacchio e amarena, tra le tue cosce, al latte di mandorle, io non so niente di te, e parlami di te, della tua vita. Ma tu al mattino, quando ti svegli dei tuoi sogni, che ne fai? Ma tu sei tu, o sei fuggita da un circo con un trapezista almeno che ti ha abbandonata a Madrid per una danza felice di flamenco? Ah, dimmi che suoni il sito per meglio di Ravishankar, che hai letto tutto Sartre, ma preferisci Camus, che ti tocchi il naso con la lingua e vorresti cambiare vita. Ah, dimmi che sai fare i tacchi, leggere i fondi del caffè, preparare i filtri d'amore, togliere il malocchio. Dimmi che prima o poi ti accorgerai di me. Stronza. Sarà pure una sociologa, ma è proprio stronza. E scusi, e mi stai inventando al telefono? Mi fanno l'effetto di un lassativo cerebrale, una diarrea di neuroni che mi scivola lentamente sul collo e mi arriva alle palle. Oh, la riunione, sai, il dottore ha detto che se tu non la smetti con quelle porcherie, ma dice che non ti vuole più visitare. Se vuoi, posso cercare di convincerla. No. È te che voglio. Non posso morire senza averti vista nuda, senza averti leccato la fica, succhiato i capezzoli, ascoltato i tuoi sì e i tuoi no, senza aver cercato sul tuo corpo l'ultima risposta o l'ultima domanda. Io ho bisogno di ascoltare quelle favole che soltanto le donne conoscono. Ogni donna nasconde il segreto di una storia sempre nuova, sempre diversa. Ogni donna. Va bene, fissa pure l'appuntamento, ma tu fai ancora uso di quelle sostanze? No! La verità? Ma che cazzo è la verità? Chi sei tu per chiedere a me di dire la verità? La sola verità che conosco è quella che ripete in continuazione che sto morendo, che mi mancano le forze, che gli scalini diventano sempre più alti, le braccia deboli, le gambe pesanti, che devo vivere sempre più in fretta, che se mi fermo un poco a prendere fiato, arriverà lei! La sola verità che conosco, la morte! Io odio la verità! Voglio dimenticarmi di lei. La verità è un lusso che non mi sono mai potuto permettere. Giocateci voi con la verità. Io devo solo imparare a mentire meglio, specie con me stesso. Non lo invidio davvero, questo povero Cristo di medico impacciato dall'impotenza meschina di una scienza ignorante che deve inventare cazzate. Oh, dottore, quando guarirò? Chi potrà mai rispondere senza obbligare le parole in doppi sensi incomprensibili? Ah, dottore, un giorno tornando da scuola ho inciampato. Ah, quanti anni avevi? Ah, non ricordo, forse 10, 12 anni. E quando è che ti sei accorto che qualcosa non andava? Eh beh, no, Non riuscivo più a pettinarmi, a infilarmi la giacca, a giocare con gli altri bambini. Basta, brutti pezzi di merda. Questa storia l'ho già raccontata 10, 100, 1000 volte. Adesso basta, eh? 2 grammi di ero e domani è un altro giorno. Alza le braccia, piegati sulle ginocchia, stringi i pugni. Alza le braccia, piegati sulle ginocchia, stringi i pugni. Oh, cazzate, sono cazzate. Non so che cosa vorrebbe dirmi, guarda, che ci vediamo soltanto per la casistica, per valutare la progressione del male, per finire il dottorato. Caro il mio Dead Man Walking, quelli come te non guariscono neppure a Lourdes. Anche Gesù ha preferito resuscitare un morto piuttosto che guarire un distrofico. E invece, quanto tempo è che non ci vediamo? Saranno passati, credo, 2 mesi. Ah, vedo che hai sospeso la fisioterapia. Lo sai benissimo. E farmi muovere come un burattino non serve a niente. E allora? Che ne diresti di una visita dal cardiologo? Oh, io, per la verità, mi sento bene, molto bene. Insomma, si può sapere per chi hai richiesto questa visita? Perché è l'unico modo per continuare a vedere la vostra calda, morbida, profumata assistente sociale dalle chiappe sode, dalle gambe nervose. Ma tu che cazzo ne sai delle mie voglie? Lo psicologo. Vorrei un colloquio con lo psicologo. Geniale, semplicemente geniale, questa stronzata è venuta fuori da sola. Bene, parla con l'assistente sociale e fatti dare un appuntamento. È stato ieri o 1 miliardo di anni fa? È successo veramente o sono prigioniero di un gioco iniziato per caso e che non riesco più a interrompere? Quando ero bambino mi divertivo a camminare con gli occhi chiusi. Contavo i passi, mormorando i numeri velocemente, tutti d'un fiato. Poi, quando il terrore diventava paralizzante, li aprivo di scatto e, preso da una strana vertigine, mi guardavo intorno scoprendo colori e forme che non avevo mai visto prima. Perché adesso non riesco più ad aprire gli occhi? Perché non appaiono le fate, i maghi, gli elfi e tutti gli altri esseri incantati che possano ridarmi le mie gambe, le mie mani sfregate, le mie corse che finivano sempre fra le tue braccia? Mi mancano i tuoi abbracci, papà, i tuoi baci ruvidi, l'odore di tabacco e sicurezza, la tua mano forte dalla quale fuggire per poi tornare e le parole che mi spianavano lo strada, le corse sui prati che tu mi lasciavi vincere. Dio, voglio correre. Sogno spesso, ma quando sogno ho paura del risveglio. Tu per me, papà, non hai mai lottato. Protetto qualche volta, nascosto sempre, ma non hai mai avuto il coraggio di batterti, di urlare in faccia al mondo: è mio! Tu, come Dio, hai lasciato tuo figlio alla sua croce. Io per te avrei dato la mia vita. Tu non avevi più vita da dare, lo so. Soltanto adesso lo so. Negli occhi e nelle mani i segni disperati dei chiodi. Tu, vivo fra i morti, e morto fra i vivi. Sarebbe bastato un no, un adesso basta. Ma tu sognavi soltanto una pace fiorita di rimpianti, i cespugli di un fosso, un campo verde, un volo di nostalgiche stagioni, gli sguardi muti dei tuoi cani, sempre diversi, sempre uguali, Diana, Siena, Ador, Lila. Questi giorni convulsi di rapina non li hai capiti mai. Un Dio raramente capisce. Non ne ha bisogno. Ti ho visto piangere. Non l'avrei mai creduto. Hai pianto la mia stessa disperazione, la mia stessa impotenza. Un guadagno! Nient'altro! Io ti sentivo ansimare, perdere il ritmo, rantolare, chiedere il perché della vita. Io ti sentivo e ho chiesto, notte dopo notte, al Dio di misericordia, un gesto di pietà, una tregua al dolore. Ho chiesto di poter morire la tua morte, di poter soffrire le tue sofferenze. Ho chiesto di poterti restituire una parte di quello che tu mi avevi dato, ma non c'è nessun Dio. Né stelle, né pianeti, né scorciatoie o vie di fuga o nascondigli bui dove in silenzio aspettare un po' di pace. Ti ho visto vivere, ma non ti ho visto morire. Ogni giorno, raschiando dalle ossa un rimasuglio di vita, mi chiedo come sia stato possibile. Tu e io, sempre insieme, tu e io, nella pioggia, nel sole, la tua pazienza e i miei occhi innocenti, la tua mano forte, il tuo corpo enorme, smisurato, possente, le tue radici profonde che mi scavavano dentro l'anima. Ti ho visto vivere, ma non ti ho visto morire. Quanto eri piccolo, seduto sul divano letto. Non farmi portar via. Grandi erano i tuoi occhi, velati d'un azzurro spento, come lo sguardo di Diana mentre il veterinario le iniettava il Tanax. Ti ho lasciato portar via, illudendoti e illudendomi. Tornerai, come sempre. Tornerai. Non ti ho visto morire. Quando esci dall'ospedale ti assale l'assurda fantasia che nel mondo sia cambiato qualche cosa. Pensi che l'orrore che ti ha colpito debba in qualche modo riflettersi nel volto della gente, sui muri, nel volo dei piccioni. Aspetti ansioso che da un momento all'altro il cielo si squarci e un triangolo al neon con un occhio al centro ti illumini e una voce tonante gridi: nessuno tocchi Caino! Non proprio nessuno tocchi Caino, basterebbe che dicesse qualcuno dia una mano a Caino. Ma nessun grido, nessuna complice partecipazione, nessuna amorevole pietà. Sei un ricatto vivente, sei uno scomodo memento mori. Sei la cattiva coscienza che agita i sogni. Sei un ammonimento inquietante per un'umanità convinta di aver conquistato l'immortalità comprando una bustina di integratori, mangiando crusca e yogurt, lavandosi i denti 3 volte al giorno, scopando con 2 preservativi infilati su uccelli. Insomma, quella gente normale che ogni domenica infilata un'Adidas corre nei parchi cittadini. Un giro in più e un'altra manciata di anni è assicurata. E poi arrivi tu. E mentre li rotoli davanti con la testa cadente, le braccia penzoloni, il loro cuore accelera e anche la loro andatura aumenta. Ma la tua immagine ne rimane imprigionata nel cervello come una vespa in un bicchiere capovolto. Oh, se capitassi a me, cosa farei? Ma come si può continuare a vivere in quelle condizioni? Io non ce la farei mai. Meglio un colpo di pistola. E rassicurati da questa scappatoia, alla prima curva scappano e spariscono. Io rimango qui. E senza tirarmi un colpo di pistola, continuo, insieme a tutti gli altri, nelle mie stesse condizioni, a domandarmi perché sia dovuta capitare proprio a me. Perché, mentre le persone normali contano i chili in più, io debba contare i giorni che mi restano. Come sei pallido e magro. Dead man walking. Si è accorta, che sono morto? Strano. Ero riuscito a ingannare tutti. Ma quel giorno che con l'omero spezzato entrai al pronto soccorso del San Giovanni, il medico di guardia urlò: stronzi, perché mi portate un cadavere? Lavatelo, mettetelo con gli altri. Domani faremo l'autopsia. Eravamo in tanti nella Murgia. Cadaveri gonfi di sogni e illusioni, fermentate nella putrida e ristagnante assenza di vita. Gorgogli indecenti di liquidi biologici, scricchioli di ossa e tendini che si contraevano nel rantolo di uso del rigor mortis. Ero euforico e gridai: ciao, morti del cazzo, fatemi spazio, sono uno dei vostri. Tu, pancione di merda, come sei finito qui? E tu, culona, con la fica depilata. Chi ti ha tagliato la gola, un cliente o il tuo papà? Si alzarono fissandomi dalle orbite buche di catrame e follia, mi sputarono parole taglienti di ghiaccio. Vattene! Tu non sei dei nostri, pozzi di vita, lontani vermi, vattene! Torna da dove sei venuto! Non ero abbastanza vivo per i vivi. Non ero abbastanza morto per i morti. Me ne andai. E dal buco nero dell'occhio mancante si affacciò un coniglio bianco che ridendo urlò: dai, facciamo un po' di snowboard sulle piste della Via Lattea e in culo al mondo! La luce è accesa, ma il buio mi acceca. Le pareti oscillano e mentre milioni di spilli mi inchiodano l'anima, affondo a fuoco con la siringa tra i denti, sfilo il laccio dell'Adidas, lo stringo intorno al polso, apro e chiudo la mano. Ecco, quando cadevo dalla bicicletta, correvo da mio padre, lui mi puliva la ferita con il fazzoletto, poi mi succhiava il ginocchio e sputava una saliva rossastra. Oh, ecco, sbuffa il sangue nero, aspirato dal pistone. Via! Corri troppo per me, Cristo, non riesco a raggiungerti! Oh, tace! Tutto tace! La siringa è nel braccio e le bolle di sangue dolciastro mi esplodono sulle labbra. Overdose! Sono entrato nel sottopassaggio dell'overdose! Come un asteroide smarrito, risucchiato dal buco nero della mia orbita vuota! Ora, ora! È più facile far passare un cazzo di cammello scoreggione nella cruna del fottuto Ado che stabilire l'ora esatta del tuo hot Big Bang. Il coniglio è l'essere più stronzo dell'universo. Bianca, la camera è bianca. Bianco il colore negli occhi chiusi. Bianco l'odore, bianco il sapore. Bianche le divise dei medici, bianco il terrore. Ho sempre odiato il bianco asettico e sadico degli ospedali. Nel bianco del soffitto si sono aperte sottili crepe di incertezza. Le formiche uscivano da quell'angolo. Il flusso non era costante. A volte diminuiva, diventando un fio esile, appena percettibile. Poi, improvvisamente, le bestioline si accalcavano, scavalcandosi, sovrapponendosi e straripando in grandi chiazze scure che venivano risucchiate da quell'angolo in ombra, vicino alla finestra. Formiche. Hai capito quello che ti ho detto? Formiche. Tu non mi stai a sentire? Formiche. È finita, non ti voglio più vedere. Formiche. Ah, il coniglio ha attaccato il jack del suo microfono direttamente al nervo acustico. Prova il microfono. Ok, vecchio coglione, mi ammazzo. Morbi, col tuo bric-a-brac da filosofo di Porta Portese, quando cazzo ti toglierai di dosso questa tuta di paille e infilerai una pelle di coccodrillo metropolitano, eh? Da coatto di Torre Angela, la spaccia del serpentone, e anche un contegno, cazzo, è lei, è lei! Io credevo di possederla, credevo che lei fosse mia, soltanto mia. Tu, tu, oh Cristo, ma con chi ho a che fare? Un imbecille, eh? Basta, non hai il coraggio di dirle, ti taglierò la gola con coltelli squagliati di ruggine. No, no, io non ho questo coraggio, questo è il mio tempo. Il mio respiro, la notte e il giorno, lo pago sperare. È uno sgabuzzino di ragni che tessono in silenzio il mio sudario. Il perché, il come, il quando e il dove è l'orologio della mia stronza vita. Ho passato tutta la vita a superare i limiti per accorgermi che oltre ogni limite c'è il nulla. No. No. Non mi getterò nel vuoto per scoprire che cosa si pensa un attimo prima di morire. Ah, vecchio coglione, quale altra cazzata vai cercando oggi, eh? Il sacro Graal. Dovremmo partire per il cipango, io, te e tre calavere. D'altra parte, il mio credo è merda secca di cane. Trasformare l'oro in merda di cane è una dimostrazione di grande padronanza degli elementi. Io ti amo. Fanculo, coniglio del cazzo! Io non sono Alice, né cara, ma sparisci! Se non sparisci subito, metterò sull'occhio mancante una benda da pirata e passerai il resto della tua inutile vita al buio! Ah, è rientrato nell'orbita, sbattendo la palpebra. Capisce, certo che capisce. Quando fa sul serio, non insiste con quelle sue pippe filosofico-moraleggianti. È intossicato dai bignami. Lo sopporto soltanto perché col tempo ci si abitua a tutto. E poi, se non avesse me, impazzirebbe. Ecco, è sparito davvero. Quando mugugna e non risponde per le rime, è offeso. Meglio così. Domani la dimentiamo. La vita è sua. Può farci ciò che vuole. Ma non dimentichi mai che la vita è una. E ci pensi su. E non faccia sciocchezze. Oh, Doc, lei sì che la metterebbe in culo a tutti quei nichilisti del cazzo che si specchiano l'acqua santiera vuota del relativismo. Vorrei leccarle la mano come l'onda di Androclo, le bacerei il centro locura dove si specchia Kundalini. Doc, non mi guardi come se l'avessi gomitato nel cappello. È un mese che mi tiene per mano. Io ero un gran figlio di puttana che avrebbe venduto sua madre per un grammo di cavallo. No, no, adesso non venderei più mia madre. No, l'affitterei, cazzo, in fondo la mamma è sempre la mamma. Dimesso dal magazzino dei pezzi avariati. Dio! Dio! Dio! Rispondimi, cazzo! Mi basta una parola, mica pretendo che mi spieghi l'alfa e l'omega, il perché, il perché, la formula della Coca-Cola. Mi basta un vaffanculo. Al limite un brutto. Niente. Silenzio. È arrivato il Natale! Yeah. Signora, ci siamo riusciti. Anche senza penicillina, possiamo dire di aver avuto la meglio di quella brutta broncopolmonite. Il dottor De Cesaris, imponente barbuto, consegnò a mia madre il foglietto bianco della prescrizione. Sono guarito! Sono guarito! Soltanto adesso mi rendevo conto di essere stato veramente male. Quando la febbre era salita oltre i 38, mi portarono nel letto grande. La penicillina. Gli americani loro sì che ce l'hanno. Ho sentito dire che si potrebbe trovarla se non parlavano d'altro. Io fantasticavo, complice la febbre, su quella medicina miracolosa e introvabile. Una notte sognai che la camera da letto si era tramutata in una di quelle grotte dove dormono gli zingari disperati costruiti al riparo dell'arco dell'acquedotto romano vicino al Mandrione. Ecco, quelle catapecchie erano per me tante capanne di Natale dove da un momento all'altro sarebbe nato Gesù. E allora angeli, cherubini, pastori, viandanti si sarebbero fermati tra quei ruderi a pregare. Nel sogno io stavo al centro del letto. Mio padre sedeva sprofondato nella bassa poltrona di velluto bordeaux e leggeva il giornale. Mia madre era avvolta dal velo di merletto col quale si copriva i capelli quando entrava in chiesa e pregava rivolta verso di me, leggermente di tre quarti, un po' come le Madonne delle Lorenzetti. I miei parenti erano sparsi per la camera, di alcuni di loro vedevo soltanto le sagome scure perse nell'ombra del corridoio. Soltanto io potevo muovermi, tutti gli altri erano curiosamente pietrificati in movimenti incompiuti, un braccio teso nell'aria, un passo interrotto, un volto distorto da un grido, da un'esclamazione di meraviglia. Arrivano, arrivano! Il grido si propagò rimbalzando di bocca in bocca. Arrivano, arrivano! Guardai verso il corridoio, li vidi, erano loro, le magie del mio presepe. Mia madre prese i doni che stringeva fra le mani e sposandoli sul comodino mi disse: Piero, ma guarda cosa ti hanno portato gli americani. Oro, incenso, penicillina! E finalmente in sogno mi veniva svelato il mistero della mirra. Al mattino raccontai il sogno a mia madre che mi strinse il petto, poi premette con forza le labbra sulla fronte, mi guardò meravigliata e disse: sei fresco come una rosa. Non hai più la febbre. È un miracolo! Miracolo, no? Io da quel giorno non ebbi più la febbre. E come disse il dottor De Cesaris, ce l'avevamo fatta anche senza penicillina. Ma su questo punto non ero del tutto d'accordo. Oggi non c'è perdono né penitenza. Oggi esiste soltanto un castigo incomprensibile, una pena troppo grande per qualsiasi peccato. Anche il dolore è muto questa notte. Pier Giorgio Guelli muore nella sua stanza la sera del 20 dicembre 2006. A staccargli la spina il dottor Mario Riccio. Negli ultimi istanti della sua vita gli restano accanto familiari e amici, la moglie Mina, la sorella Carla e i radicali Rita Bernardini, Marco Pannella e Marco Cappato. So che dove ti trovi non ti risponde nessuno, ma non chiedere a me perché ti hanno tenuto per 6 mesi dentro un freezer. Eri tu a dirmi che la democrazia comporta sempre un prezzo da pagare. Sarà pure, lo metto in dubbio, ma su certi aspetti io non t'ho mai seguito. Questi amici di cui ti parlavo, ci siamo messi in testa di cambiare le cose, ma cambiarle davvero. Eri tu a ripetermi che non esiste un'arte privata, che un artista ha l'obbligo morale di di incidere sulla realtà. Eri tu a dirmi che bisogna essere vivi. Vivi, allora. Ma non fraintendermi, con queste mie parole non voglio certo farti riapparire in qualche strana seduta. Sarebbe assurdo che adesso qualcuno ti facesse camminare. Il pomeriggio prima dei funerali il corpo di Pier Giorgio non c'era. Nella sua stanza restava soltanto quell'odore che tanto avevo sentito e che tanto avevo amato. Ancora oggi mi sembra assurdo pensare alla sua morte. Infatti per me è come se Pier Giorgio Vecchi non fosse mai morto.